Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ben ritrovati a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Oggi riprendiamo ad analizzare la manovra correttiva dei conti pubblici varata qualche giorno fa e tutte le novità che porta con sé. Da ieri, dopo la firma del presidente Napolitano, la manovra è in Gazzetta Ufficiale. Già da ieri abbiamo cominciato ad esaminare i provvedimenti più importanti, cominciando con uno dei capitoli sicuramente più importanti per molte famiglie, ovvero la variazione di alcuni requisiti per andare in pensione. E abbiamo spiegato come a partire dal 1 gennaio del prossimo anno funzionerà il sistema delle finestre a scorrimento, che comporterà uno slittamento della pensione di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi. Peraltro tutte le novità che erano ieri sulla guida operativa del Sole 24 Ore ritornano anche parzialmente oggi sul quotidiano, perché il Sole 24 Ore ha organizzato questa piccola task force di esperti per rispondere alle domande dei lettori su queste novità, e i lettori ieri hanno avuto l'opportunità di scrivere i loro quesiti attraverso il sito del Sole 24 Ore, e oggi il Sole pubblica molte delle risposte alle domande che sono pervenute da parte dei lettori. Oggi Salva Danaio apre invece il capitolo dell'invalidità, perché in questo caso il governo, con l'obiettivo di razionalizzare e controllare un settore ad elevatissimo rischio di abusi, ha scelto di tirare la cinghia dei requisiti e rendere più efficaci i controlli. La norma più significativa prevede che il diritto all'assegno mensile di invalidità scatti quando al beneficiario è riconosciuta una invalidità dell'85% e non più del 74% come previsto dalle norme attuali. Questo significa che questo assegno presumibilmente non potrà più essere concesso per molte patologie. Poi scattano anche i controlli, e molti si sono preoccupati, perché chi percepisce già questo assegno naturalmente teme di vederselo ritirare, perché i controlli si inaspriranno. Tutte le normative, tutte le novità normative guardano al futuro, non sono retroattive, per cui questa è una precisazione che va fatta immediatamente, ma la specificheremo ulteriormente con i nostri ospiti di oggi, che saluto. Intanto benvenuta ad Angela Maria Caraccio, responsabile del settore previdenza del patronato INAS CISL Nazionale. Dottoressa Caracciolo, buongiorno, benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno. E ritorna per il secondo giorno consecutivo con noi anche Giuseppe Rodà, che sull'invalidità ha scritto diverse cose in questi giorni per il quotidiano, esperto per il Sole 24 Ore in materia previdenziale. Già ieri ci ha aiutato con i nuovi requisiti per la pensione, oggi andiamo invece ai nuovi requisiti per l'assegno di invalidità. Rodà, buongiorno. Buongiorno a tutti. E bentornato. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, per le vostre domande, le vostre curiosità, le vostre perplessità. Per la verità qualche medico e qualcun altro ci ha anche già scritto commentando un po' questa manovra e questo inasprimento, se vogliamo, delle condizioni per ottenere questo assegno, e magari poi leggeremo anche qualcosa insieme. E ci potete anche scrivere, se non volete chiamare, al 349-238-6666. La borsa torna un po' a preoccupare l'umore degli investitori, dei piccoli risparmiatori, perché stamattina si scende ovunque pesantemente, ma soprattutto particolarmente pesante la situazione di Piazza Affari. Il FTSE MIB perde il 3,31%, meno 6 punti per le big del settore bancario, Intesa e Unicredit, Azimut meno 4,73, Banco Popolare meno 4,45, meno 4 Mediobanca, meno 4 UbiBanca, meno 4 Monte dei Paschi. Cosa succede? Che la Banca Centrale Europea, nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona, ha detto che le banche devono essere pronta a ricapitalizzarsi, perché è in arrivo una seconda ondata di svalutazioni su prestiti e titoli, e quindi questo monito è stato colto in questa maniera dalle banche italiane. Ovviamente il listino di Milano è particolarmente esposto nel settore bancario, di conseguenza questo listino perde molto più degli altri. Parigi meno 2,40, Francoforte meno 1,75, Londra meno 2. Oggi Londra ritorna alle contrattazioni dopo la pausa di ieri per il Memorial Day, come oggi accadrà a Wall Street. Tra l'altro su Londra pesa il crollo dei titoli di British Petroleum, meno 14,5%. Il gruppo naturalmente sotto la pioggia delle vendite per il fallimento dei tentativi fatti dalla compagnia per tappare la falla da cui fuoriesce il greggio che sta inondando le acque del Golfo del Messico, e anche questo fatto stamattina pesa sui titoli del settore petrolifero, che sono tutti quanti in perdita. Infatti Milano per esempio Saipem perde 4,5 punti. Insomma, un'altra brutta giornata per quello che riguarda la borsa. Peraltro poco fa si è appreso, ve la leggo la notizia che ha arrivata appunto proprio dalle agenzie qualche istante fa, c'è un nuovo record per il costo assicurativo contro il rischio default dell'Italia. Il CDS, il Credit Default Swap, a 5 anni si è portato a 250 punti base dai 200 segnati ieri, per cui anche questo indica che per Milano in sostanza come dire, gli investitori hanno un atteggiamento un po' più negativo, ma questa insomma è una cosa che ripetiamo ormai da tanto tempo e vediamo insomma se poi nel pomeriggio questa attenzione tornerà a stemperarsi un po'. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di questa mattina, parliamo dei nuovi criteri per l'erogazione delle pensioni di invalidità. In una manovra finanziaria improntata sul rigore dei conti e sul taglio degli sprechi, non poteva mancare uno spazio anche per i falsi invalidi. Scattano infatti nuove norme sugli assegni di invalidità civile che alzano la soglia di invalidità necessaria per poter disporre degli assegni. Se prima la percentuale per poter beneficiare del sostegno economico pubblico era almeno al 74%, ora, per chi presenta domanda dal 1 giugno di quest'anno, il limite minimo è dell'85%. Chi si colloca al di sopra di questa soglia continuerà a beneficiare dell'assistenza economica che ha sempre ricevuto. Per gli individui invece che possiedono purtroppo il 100% di invalidità, non si parlerà più di assegno di invalidità civile, ma di pensione di inabilità. Nessun cambiamento nella manovra sulle modalità di richiesta dell'assegno e sulla procedura da inoltrare all'INPS. L'invalido civile che deve ottenere sostegno economico deve avere fra i 18 e i 65 anni, con una permanente riduzione della capacità lavorativa non dovuta a cause di guerra, di servizio o di infortunio sul lavoro. Le domande per l'ottenimento dei benefici devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica sul sito internet dell'INPS, ovviamente corredate dalla certificazione medica che attesti la natura e quindi la misura dell'infermità. Poi vorrei leggervi la lettera di un medico di Castellammare di Stabia, Paolo, non cito il cognome, un medico cieco con invalidità al 100% che ci ha scritto questa mattina una mail piuttosto circostanziata dove naturalmente si così offende un po' rispetto a queste misure del governo e mi dice mi spiace che anche voi partecipiate a questa opera di disinformazione mediatica, non so quanto consapevolmente, visto che praticamente avete descritto la puntata come un approfondimento sulla realtà dei falsi invalidi. Allora Paolo, io spero che naturalmente non passi questo messaggio, è una realtà che esiste come esiste quella dei medici compiacenti che firmano indiscriminatamente ovviamente dei certificati medici che attestino più o meno delle invalidità esistenti o no, quindi ovviamente per lei che ha un'invalidità così pesante al 100% è chiaro che si senta colpito nel vivo e non vuole essere come dire inserito in questa mischia. Di fatto questa situazione c'è, io credo che lei lo sappia benissimo essendo anche un medico, quindi noi vorremmo solamente un po' descrivere quello che cambia, non vogliamo colpevolizzare nessuno, né falsi invalidi né medici, vogliamo solamente spiegare a chi si appresta a fare una richiesta di questo tipo, perché magari ne ha tutti i diritti, quindi chi si appresta a chiedere un assegno di invalidità, un assegno di accompagnamento, una pensione di inabilità, perché poi ci sono tre tipi di trattamenti assistenziali economici riconosciuti, che cosa cambia per queste persone e quindi a che cosa va incontro, senza ritornare a commentare quanto accaduto nel passato. Allora, dottoressa Caracciolo, ho detto bene, insomma ho detto solamente una svalangata di ovvietà? No, lei ha detto bene e se mi permette vorrei concordare col medico che ha scritto, perché sembra che questo innalzamento della percentuale voglia significare che chi ha l'assegno di invalidità civile oggi col 74% può essere immaginato come un falso invalido. Ecco, non è così, sono delle misure che tra le altre cose prevedono giustamente dei controlli e chi è un falso invalido, come giustamente lei ricordava, anche chi è un medico che ha certificato una falsa invalidità è giusto che sia correttamente punito, però ecco, concordo con il medico nell'evitare di generalizzare, insomma, no, anche su un argomento che è molto delicato per molte famiglie, ci sono molte tragedie in molte famiglie ovviamente, e queste tragedie vanno gestite purtroppo con tanto denaro qualche volta. Sì, io le posso garantire che questo avviene perché noi facciamo assistenza nel nostro patronato e abbiamo ogni giorno la possibilità di confrontarci con situazioni molto pesanti. Infatti, no, poi tra l'altro, come dire, lo scoraggiamento di questo medico è determinato anche dal fatto, lui ci racconta, che usufruisce di un'indennità di accompagnamento, non della pensione perché continua a lavorare, esatto, e quindi questi soldi gli servono proprio per pagarsi l'autista, quindi il trasporto, essendo ovviamente cieco, e tutte le spese accessorie, visto che ci racconta vive a 45 km dall'ospedale dove lavora. Noi salutiamo Paolo, naturalmente gli siamo vicini. Detto questo, andiamo un po' a questi nuovi criteri di erogazione dell'assegno di invalidità. Allora, la cosa più importante, dottoressa Caracciolo, l'abbiamo detta, è questo aumento della percentuale. Appunto, come lei giustamente precisava all'inizio, è una norma che interviene a partire dalle domande presentate da oggi, quindi dal 1 giugno 2010. Quindi tutti coloro che presenteranno domanda per accertare lo stato di invalidità civile potranno ottenere l'assegno di invalidità con raggiungendo questa percentuale minima dell'85%. Ci può fare qualche esempio, tanto per capire, per esempio, quale patologia non potrà più vedersi riconosciuta un assegno di invalidità? Ma guardi, non è una questione di patologie specifiche, è una questione di valutazione, dell'invalidità sanitaria, sì, che poi ovviamente ci sono patologie particolari, ci sono normative specifiche, per esempio per i malati oncologici c'è tutto un percorso particolare, come ci sono alcune malattie particolarmente gravi che sono state individuate in un decreto ministeriale, però diciamo che tutto dipende da una valutazione sanitaria che poi può essere anche assoggettata a una verifica successivamente, quindi a una revisione. E certo, quindi ci sono delle tabelle sanitarie di base, poi naturalmente ogni situazione va circostanziata e va esaminata per la sua individualità. Adesso devo già andare in pausa, dottoressa Caracciolo. Rodano, mi sono dimenticata di lei, adesso arriva lei alla seconda parte della trasmissione, però anche qui per rassicurare chi questi assegni li percepisce già, i controlli, ci saranno dei controlli retroattivi sul diritto o meno di vedersi percepito questi assegni, dottoressa Caracciolo? Chi percepisce oggi l'assegno di invalidità gli è stato concesso con quella percentuale prevista dalla legge, e quindi ci saranno i controlli che sono già previsti, che sono già stati avviati già dal 2009, che riguardano appunto quelle verifiche che diceva lei, per portare allo scoperto situazioni di illegalità, ecco, però. Benissimo, però insomma, per chi invece è tranquillo e ha questo assegno perché, come dire, affronta una situazione di vita anche piuttosto difficile, da un'invalidità, su queste misure appunto riconosciute e convalidate, insomma, state tranquilli. Oggi Salva Danaio affronta un tema molto delicato sul quale ci sono alcune novità introdotte dalla manovra correttiva sui conti pubblici, quella da 25 miliardi di cui stiamo ampiamente parlando in questi giorni. Ci sono dei nuovi requisiti per le famiglie che intendono chiedere, perché c'è un componente che ha qualche problema all'interno di questo nucleo familiare, un assegno di invalidità, un assegno di accompagnamento o una pensione di inabilità, se in questo caso appunto l'inabilità accertata è proprio del 100%, quindi l'invalidità è accertata del 100%. Allora, qualche novità l'abbiamo già cominciata ad anticipare con Angela Maria Caracciolo, responsabile del settore previdenza del patronato INAS CISL nazionale. Adesso andiamo a Giuseppe Rodà, esperto del Sole 24 Ore, comincio a farlo parlare adesso visto che ha parlato a lungo anche ieri a Salva Danaio. Dottor Rodà, è stata una giornata impegnativa quella di ieri, visto che per una decina di ore vi siete messi a disposizione dei lettori del Sole 24 Ore per rispondere a tutte le domande su tutte le novità in materia pensionistica delle ultime giornate. Sì, ma sono pervenute 2.100 quesiti. E insomma, quindi ovviamente non ha risposto tutto lei, perché lo abbiamo ricordato, c'era una piccola task force di esperti, e soprattutto i quesiti, ho visto anche quanto riportato stamattina dal Sole a pagina 15, erano soprattutto su questa finestra mobile che teoricamente allontana la pensione. Sull'invalidità invece che quesiti sono arrivati, Rodà? Sull'invalidità parecchi hanno espresso i loro timori, che sono già titolari di assegno, se magari lo vengono a perdere questo assegno per via dell'elevazione della percentuale dal 74 all'85%, come ha già più volte detto, non c'è questo pericolo, però un pericolo si può prospettare se qualcuno rientra nel piano di controlli per il triennio 2010-2012. Si tratta di 500.000 verifiche. E chi saranno i soggetti? 100.000 per il 2010 e poi 200.000 per 2011 e 2012. Quindi in sostanza c'è un piano di controlli, che chi effettuerà, chi saranno ad effettuare questi controlli in questo triennio? Rodà, chi riguarderà esattamente questi controlli? Perché quindi qualcuno potrebbe anche teoricamente non dormire sonni completamente tranquilli. No, questi controlli che ci sono già, come la dottoressa Caraccio ha già detto, sono già in atto dal 2009, quindi c'è una funzione di controllo normale, costante, normale, insomma, monitoraggio poi ci costante. Questi piani straordinari che vengono appunto stabiliti per combattere il fenomeno, purtroppo, che esiste dei falsi invalidi. Quindi diciamo perché che non poi possiamo dimenticarci, l'ha detto la televisione, non so, il cieco che leggeva il giornale davanti all'ufficio postale, che in attesa di prendere l'assegno, sono casi che si verificano. E infatti. Quindi qualcosa di marcio c'è. E infatti su questo ovviamente abbiamo commentato tante volte, è un fenomeno riconosciuto, quindi è bene che i controlli si inaspriscono. Peraltro lo ricordava anche Andrea Carli, sempre sul Sole 24 Ore a metà settimana scorsa, è riconosciuta anche la responsabilità, e qui perché molti ascoltatori ovviamente lo chiedono, dice ma insomma ovviamente i falsi invalidi vanno colpiti, ma anche il personale sanitario che certifica tutto questo, perché non ne parlate? È riconosciuta anche la responsabilità per danno erariale a carico del personale sanitario che intenzionalmente attesta falsamente uno stato di malattia o di handicap, per cui insomma bisogna essere tranquilli anche su questo, perché ognuno si vede poi attribuite determinate responsabilità e paga quando non si comporta correttamente. Allora cominciamo a sentire le domande degli ascoltatori e vediamo un po' di capire come funzionano anche i nuovi requisiti e soprattutto anche se c'è una modalità diversa per presentare la domanda per questi assegni. Cominciamo con Rupen da Bari, che saluto. Buongiorno Rupen. Buongiorno. Rupen signora, con la P, che nome originale, Rupen, da dove arriva? Perché Ruben è argentino. Armena, quindi sì, da tutt'altra parte. Sì. Mi dica. Sì. Sì, volevo dire intanto grazie per questi insegnamenti che ci date ogni giorno e per la vostra professionalità. Grazie. Il problema mio è questo. Io 10 anni fa ho subito 3 bypass. Mm-hmm. 2 anni fa ho subito un altro piccolo intervento e mi hanno messo 2 stent, quindi un fatto cardiaco. Sì. Ancora ho avuto un incidente, ho il bacino fratturato, poi ho un po' di glicemia. Insomma, è uno stato detto fisico un po' problematico, quindi tutto questo la rende impossibile lavorare, Rupen? No, io grazie a Dio diciamo sono a posto. Però mi hanno sollecitato, dice, come con tutti questi interventi, cosa devi chiedere? Puoi chiedere la pensione di invalidità. Io ho presentato attraverso l'ACLI, il patronato, ho richiesto questa pensione. Qualche amico, siccome io ho 66 anni, qualche amico avvocato dice, no guarda, 66 anni ormai puoi dimenticartela, la pensione non ti sarà riconosciuta. Ecco, la mia domanda è questa, è possibile? È possibile. Allora Rupen, io la ringrazio per questa domanda, intanto perché ci dà modo anche di testimoniare a dottoressa Caracciolo che oltre a tutti quelli che operano in cattiva fede e magari si fanno certificare da un medico compiacente una situazione di invalidità non vera, c'è chi invece in totale buona fede addirittura non pensa neanche a fare la domanda se addirittura avesse i requisiti, le condizioni per poterlo fare. Detto questo, per avere l'assegno di invalidità c'è effettivamente questo requisito sanitario di un'età compresa fra i 18 e i 65. E quindi paradossalmente Rupen, che più invecchia, più teoricamente avrebbe bisogno di un sostegno economico, non lo può avere? Cioè sia l'assegno che la pensione di inabilità sono legati anche a questo requisito anagrafico, cioè ne possono avere diritto le persone tra i 18 e i 65 anni. L'unica prestazione che non è collegata ha un requisito anagrafico, oltre che reddituale, l'indennità di accompagnamento, però è ovvio che deve avere una soglia elevata di molto elevata di invalidità, deve avere alcune caratteristiche particolari e definite, come appunto la frase, no, di rito che bisogna richiamare in queste circostanze, cioè deve essere una persona che è impossibilitata a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita, eccetera. Quindi una persona che necessita di assistenza continua. In ogni caso è ovvio che poi tutte le situazioni devono essere assoggettate a una valutazione medica e quindi a priori non si può escludere né prevedere con certezza un beneficio, però in realtà il requisito anagrafico è un requisito proprio per il diritto, necessario per il diritto alle prestazioni sia dell'assegno che della pensione. E credo che Francesco da Roma, che faccio intervenire subito, sia nelle medesime condizioni. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Un pimpante ottantenne, se non sbaglio. Circa 80 anni, però ecco, praticamente è una mia parente, ha di tutto, ha avuto 2-3 infarti, appunto, è sottoposta a dialisi, è assistita da un fratello, Scapolo, chiaramente, che sta insieme a lei. Per cui a questo punto veramente la cosa è molto triste, perché una persona, come diceva la dottoressa, praticamente fino a 75 anni, com'è? 65, sì. Capite, è una bella notizia, mica tanto bella. No, magari allora facciamo un po' di precisazioni a proposito di questa storia del requisito anagrafico che evidentemente, dottoressa Caracciolo, un po' scandalizza effettivamente. Perché è stato fissato in una misura così minima? Perché teoricamente più si invecchia più si avrebbe bisogno, no? Cioè, voglio dire, le invalidità, soprattutto quelle di un certo tipo, dalla dialisi è difficile che si esca. È un requisito che è legato a quello dell'età pensionabile, insomma si rifà allo stesso, diciamo, allo stesso principio, allo stesso criterio, tant'è che poi chi è già titolare di assegno di pensione al raggiungimento dei 65 anni di diritto automaticamente avrà l'assegno sociale, che è la prestazione a cui hanno diritto le persone che non hanno una situazione, una posizione contributiva e che hanno una situazione reddituale di un certo tipo. Possiamo suggerire a Francesco di provare anche in questo caso, per quel nucleo familiare che citava, comunque di magari provare a chiedere un assegno di accompagnamento. Esattamente, perché appunto, come dicevo prima, escludere la possibilità non è possibile, in quanto tutto è legato alla valutazione medica. Quindi io comunque proverei a fare una domanda per l'indennità di accompagnamento. Tra l'altro, in che misura viene? Vado da Rodà adesso, anzi, perché per il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento, in un primo momento, in una prima fase di stesura della manovra, si parlava anche di fissare un requisito reddituale, no? Mi pare che questo pericolo sia stato scampato, Rodà. Sì. È stato scampato perché evidentemente chi l'aveva inserito non era molto al corrente che esisteva già un principio consolidato della Cassazione che affermava che escludeva appunto il requisito reddituale. In parte poi si era occupata anche la Corte Costituzionale sempre in questa prospettiva. Quindi evidentemente qualcuno ha avvertito gli estensori della prima stesura e quindi c'è stata la marcia bene, indietro. Hanno pensato bene e correttamente di eliminare quel requisito reddituale, perché l'indennità di accompagnamento è ancorata proprio alla riduzione di capacità lavorativa, alla minorazione fisica. Se ne facciamo anche una questione economica. Quindi è un fatto di minorazione. E d'altra parte questa indennità di accompagnamento solleva in parte anche l'onere dello Stato, nel senso che se c'è questa indennità allora lo Stato può intervenire di meno per assistere questi invalidi. Ah beh, certo, quindi insomma magari alla fine si sono convinti che la potevano vedere anche da un punto di vista positivo questa faccenda. 800 24 00 24, numero verde per gli interventi degli ascoltatori. Adesso sentirò Christian da Roma e anche altri. Io spero anche di aver accontentato quelli che all'SMS ci chiedevano, per esempio, di chiarire gli aspetti sulla retroattività, che non esiste per queste nuove misure. Al limite, insomma, attenzione ai regolari processi di controllo che vengono fatti, ma questi erano già in atto. Allora, 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Adesso stiamo cercando un ascoltatore che vorrebbe introdurre qualche considerazione in più rispetto ai requisiti reddituali per vedersi riconosciuti questi trattamenti assistenziali economici, assegno di invalidità, assegno di accompagnamento, per il quale non è previsto nessun requisito reddituale. Gli altri due trattamenti invece hanno i requisiti, e adesso sentiremo l'ascoltatore e poi ci torniamo su questo argomento. Però aveva la priorità Christian da Roma, che saluto. Christian, buona giornata. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io ho un bambino di 8 anni affetto da autismo, sì. E rivedibile ogni 3 anni, lui percepisce l'assegno. Quindi non rientrerà più nella questione della pensione per invalidità, perché essendo un minore? Dottoressa Caracciolo. Sì, no, per i minori è prevista l'indennità di frequenza. Ah, ecco, è un altro tipo ancora, sì, di trattamento, sì, assistenziale. Un altro trattamento, sì, che è legato ovviamente alla frequenza di un controllo, di un corso, di una scuola, eccetera. E è legato anche in questo caso, quindi di età inferiore ai 18 anni, quindi appunto per i minori, sono legati anche questi soggetti al reddito, al limite reddituale proprio personale del bambino. Però diciamo che le novità di cui stiamo parlando non rientrano in questo campo, nel campo appunto relativo alla condizione in cui si trova il bimbo di Christian, che peraltro appunto salutiamo, è un altro tipo di trattamento assistenziale. Sentiamo Paolo da Ascoli, che invece insomma ci fa una domanda che mi è parsa piuttosto interessante, per cui la ringrazio per la tirata d'orecchie. Paolo, buongiorno. Buongiorno signora, e anche agli ascoltatori di Radio 24 Ore. Vorrei far presente, in ambito di questa conversazione che è molto interessante, che io, essendo disabile al 100%, a seguito di uno sfortunato ictus di cui sono stato vittima, non ho diritto a un bel niente dallo Stato italiano, perché io sono un ricco. Io ho un reddito maggiore di 14.000 euro l'anno e quindi non ho diritto a niente. Solo le medicine non le pago, perché ho l'esenzione, in quanto ho un codice, mi sembra 101, quindi la ASL13 ha riconosciuto questo codice come titolare di esenzione. Paolo, lei ha un familiare che si prende cura di lei? Avrei mio figlio, che però lavora nelle Poste Italiane e nel Nord Italia. Che succede? Che ha fatto domanda di avvicinamento, sì, e gli hanno detto che può essere trasferito immediatamente se io sono a suo totale carico, mentre io, per grazia di Dio, ce la fa ancora nessuno, perché sono ancora almeno autosufficiente ancora per così organizzarsi la sua vita. Paolo, io la ringrazio, io mi rendo conto che le vostre considerazioni sono assolutamente pertinenti. Lui parlava peraltro di 14.000 euro, dottoressa Caracciolo, il requisito reddituale è un pochino più alto per la pensione di Namibia. Quello per quest'anno 15.154 euro. Cioè, io mi rendo conto che magari poi qualche volta si supera veramente per pochi centesimi, per pochi euro, però di fatto la legge stabilisce questo. Vincoli, E quindi niente, insomma, questa è la situazione. Dottoressa Caracciolo, andiamo un po' anche alla presentazione della domanda. Che cosa cambia da oggi per presentare la domanda per ottenere l'assegno di invalidità o il riconoscimento della pensione di inabilità? A chi ci rivolgiamo? Ma veramente è già cambiato dal 1 gennaio di quest'anno, realtà. Sì. E quindi con queste nuove norme entrate in vigore dall'inizio dell'anno, praticamente l'unico interlocutore, l'unico gestore di tutto il procedimento che va dall'accertamento della condizione di invalido, quindi presentazione della domanda, fino alla fase della concessione e dell'erogazione, è diventato l'INPS. E la novità è che tutto avviene per via telematica, quindi è stata introdotta la figura del nuovo medico certificatore, cioè un medico iscritto all'albo che si è accreditato all'INPS ha ottenuto un PIN con il quale può accedere alla procedura e inviare il certificato medico per via telematica. Mm-hmm. Quindi non circolano, o comunque non dovrebbero circolare più, certificati medici cartacei. Invece in realtà forse un pochino ancora circolano, perché insomma perché un po' ci sono state e continuano ad esserci un po' di difficoltà, perché il numero dei medici che si è accreditato non è sufficiente a coprire, soprattutto dei medici di famiglia, che sono, diciamo, gli interlocutori immediati e a cui tradizionalmente le persone si rivolgono per avere una certificazione di questo genere, no? Si sono accreditati in un numero non soddisfacente e quindi diciamo che ci siamo trovati in difficoltà, anche perché, le dico, anche la nostra esperienza di patronato, che siamo i soggetti, ecco, che sono abilitati all'invio poi della domanda telematica, della domanda amministrativa. Quindi, inviato il certificato telematico, entro 30 giorni bisogna inviare anche la domanda all'INPS, sempre per via telematica. Insomma, il medico anche, non è che stiamo proprio parlando di uno sprovveduto, voglio dire. Quanto ci vorrà mai a certificarsi anche presso l'INPS mi vedo che mi arriverà una valangata di mail di medici arrabbiati perché ho fatto questa considerazione. Per carità, con tutto il rispetto anche per il loro lavoro, che negli ambulatori ovviamente è molto oneroso, qualche volta la procedura può anche non funzionare e questo complica il lavoro dei medici perché hanno la fila negli studi, siamo consapevoli di tutto ciò, però insomma un po' di difficoltà ci sono state da questo punto di vista. Insomma, ammettiamo che sia un periodo di transizione che poi si concluderà più presto con il migliore dei mondi possibili. Io tra l'altro faccio riferimento anche quando vado dal mio, che è molto simpatico, ma ha una scrivania strapiena di documenti e di cose da tenere e da valutare. Se si informatizzasse tutto, sicuramente anche la sua scrivania sarebbe un po' più praticabile. Rodà, volevo tornare da lei, perché lei nel pezzo che ha scritto ieri per il Sole di 24 Ore ricorda anche come è stata realizzata questa applicazione Invalidità Civile 2010 sul sito dell'INPS, per chi volesse anche delle informazioni su tutto questo, tutta questa procedura. C'è tutto sul sito, quindi la dottoressa Caraccio l'ho già spiegato, il nuovo sistema di presentazione delle domande, che praticamente dal 2010 è entrato in gioco completamente l'INPS in questa delicata partita degli assegni di invalidità, delle pensioni di inabilità e così via. È bene anche ribadire che per l'assegno di invalidità civile, oltre il requisito sanitario di cui abbiamo parlato, c'è anche il requisito reddituale, che per il 2010 è di euro 4.408. Infatti. Invece per la pensione di inabilità, l'ha già detto la dottoressa, è 15.154,24. Allora, per chi volesse fissarsi bene in mente questi requisiti, io, se potete recuperare il Sole di ieri, era tutto ben schematizzato in maniera molto chiara, per cui, ma sicuramente anche tanti altri giornali hanno fatto questo lavorone in questi giorni. Signori, Salvadanaio termina qua, sicuramente non avremo risposto a tante delle vostre domande, magari ci impegniamo a ritornare su questi argomenti prossimamente, a riesplorare un po' tutti i punti principali di questa manovra e soprattutto dal punto di vista delle pensioni, perché è un tema che vi sta molto caro, sia quelle tradizionali che queste di invalidità. Io intanto ringrazio per essere stata con noi al suo debutto la dottoressa Caracciolo del patronato INAS CISL Nazionale. Grazie e buon lavoro naturalmente per i vostri sportelli in questi giorni intasatissimi sicuramente. Rodà, a presto, buona giornata. Arrivederci. Grazie. Saluto anche la dottoressa Caraccio. Benissimo. Io intanto volevo solo dire a Rita da Roma, che era pronta con la sua domanda. Rita, se poi ci scriva e magari gireremo la sua domanda, così come tutti gli altri che non sono riusciti ad intervenire, ai nostri interlocutori, ai nostri esperti. Io vi ricordo che potete scriverci anche all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Ringrazio Alessandro Longoni e la bentornata Gaia Romani dalle sue vacanze per l'assistenza in redazione, Paolo Corleone in assistenza tecnica. Noi torniamo domani, anche se è il 2 giugno. Buona giornata.